La storia e la memoria di Dino Pesole. Solenni commemorazioni lo scorso 6 giugno in Normandia per rievocare il D-Day, il 6 giugno del 1944, quando le spiagge della Normandia divennero teatro dello sbarco che determinò le sorti della Seconda Guerra Mondiale. L'esito dell'invasione si decise di fatto nelle ore che seguirono lo sbarco, anche se poi la battaglia, durissima, si protrasse su quelle coste fino al mese di agosto. Al termine della battaglia di Normandia, sul campo, tra morti, feriti e dispersi, gli alleati lasciarono tra i 10 e i 12 mila uomini, di cui oltre 6 mila solo americani. Oggi chi visita quelle coste si imbatte in 22 cimiteri, cosparsi di migliaia di tombe allineate. È il prezzo che quei ragazzi americani, inglesi, canadesi, francesi, polacchi hanno pagato per la libertà dell'Europa e del mondo. Tra gli alti comandi alleati vi è molta incertezza sul luogo dello sbarco. Gli americani puntano su Calais, il punto più vicino alla costa inglese. Gli inglesi preferiscono la Normandia, che ha le difese più deboli. Nell'agosto del 1943, alla conferenza di Quebec, si decide per la Normandia. Il piano viene approvato da Churchill, Roosevelt e dai capi di Stato Maggiore delle due potenze. Ora si tratta di convincere i tedeschi che lo sbarco avverrà proprio nella zona di Calais. L'inganno, opera di una complessa azione di intelligence, riuscirà così bene che i tedeschi continueranno a credere che lo sbarco in Normandia sia soltanto un diversivo e che la vera invasione avverrà a Calais, dove continueranno a mantenere il grosso delle forze. Gli alleati mobilitano la più imponente forza da sbarco della storia, circa 200.000 uomini per la prima ondata, 12.000 aerei, 5.000 navi, 4.120 mezzi da sbarco con 950 carri armati. Nell'intera operazione verranno impiegati più di 2 milioni di uomini, tra militari e civili. 5 i punti di sbarco, 5 spiagge sabbiose su un fronte di 60 chilometri, davanti a Caen. Ad attenderli gli alleati trovano 50.000 tedeschi con 890 aerei, 21 navi, 127 carri armati, i pali piantati nella sabbia e i bunker del vallo atlantico. Hitler ha affidato a Erwin Rommel, la volpe del deserto, l'incarico di difendere l'imponente linea di difesa eretta nel nord della Francia per far fronte all'imminente attacco nemico. Rommel contro Eisenhower, il generale americano che Roosevelt ha nominato comandante supremo delle forze di invasione alleate. Il giorno dell'attacco Rommel non è nel suo quartier generale alla Roche-Guyon, è in Germania, a Erlingen, a festeggiare il compleanno della moglie, convinto che lo sbarco sia tutt'altro che imminente, date le avverse condizioni climatiche e la bassa marea. La tempesta che il giorno prima aveva fermato Eisenhower garantisce agli alleati il vantaggio della sorpresa. La Chanson d'automne di Paul Verlaine è l'annuncio in codice dell'inizio dell'invasione. Pochi secondi dopo le 2:30 di notte, le navi della flotta di invasione cominciano a mettersi in posizione. 7 corazzate, 23 incrociatori, 250 altre navi da guerra e migliaia di navi da trasporto in cui sono accalcati 155.000 uomini. Gli aerei della RAF si alzano in volo. Faranno da battistrada alla 6ª divisione aerotrasportata britannica. Alle 3:30, 72 alleati carichi di cannoni e di equipaggiamento cominciano ad atterrare. Alle 5:50, le corazzate della flotta alleata aprono il fuoco. In contemporanea, 10.000 aerei si lanciano sulle spiagge a bassa quota, bombardando le difese tedesche. Alle 6:30, i primi soldati toccano terra. A Utah, Sword, Juno e Gold, la resistenza tedesca è modesta. A Obama Beach, invece, è violentissima. Qui gli americani pagano il prezzo più alto. La Big Red One, la prima divisione dei Marines, è decimata. La 29ª è in difficoltà. È un inferno. Centinaia di mitragliatrici pesanti inchiodano i Marines. Abbiamo in linea il professor Giuseppe Conti, docente di storia contemporanea e storia militare a scienze politiche dell'Università della Sapienza di Roma. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito, professore. Buonasera, grazie. Allora, dalla nostra ricostruzione emerge, ma ormai questa è storia che più o meno conoscono tutti, che lo sbarco in Normandia fu un'operazione militare assolutamente ben architettata in tutti i suoi particolari. diciamo che fu il capolavoro della guerra industriale, possiamo dire, e anche del comando, dal punto di vista strategico. Fu molto sofferta, si trascinò per anni, però alla fine con Eisenhower alla testa, diciamo, fu certamente un grande successo e in 80 giorni portò alla liberazione di Parigi. Ecco, ma dal solo punto di vista militare non si potrebbe comprendere il successo di un'operazione così massiccia. Ci fu anche un minuzioso lavoro di intelligence che venne condotto dai servizi inglesi. Che ruolo ebbe questo supporto, diciamo, preliminare allo sbarco? Ma direi che fu uno dei fattori fondamentali, diciamo, della vittoria, insieme alla pianificazione, fu certamente determinante e desta un po' di sorpresa il fatto che i tedeschi non siano riusciti a individuare l'assenza di Rommel è significativa, ecco, dopo aver preparato con minuzia, con attenzione tutte le difese per mesi, e poi si allontana proprio un giorno prima. Questo non è il primo caso di operazione ben riuscita, diciamo, di disorientamento. C'era già stato in Sicilia con l'operazione Minsmith, ma questa volta è veramente clamorosa, insomma. Sostanzialmente i tedeschi sono convinti che gli alleati sbarcheranno a Calais, cioè la zona più difesa oltretutto, ecco. Ed è certamente, dicevo, insieme all'aspetto industriale, anche alla superiorità ormai di fuoco. Gli alleati sono superiori sul piano delle forze aeree, la Germania è ridotta ai minimi termini, però ecco, ognuno di questi fattori è determinante, quello dell'intelligence è certamente centrale. Certo, se Hitler avesse mosso la 15ª armata, convinto com'era che invece l'attacco, appunto, come le diceva, sarebbe stato a Calais, forse la battaglia sarebbe stata ancora più dura, probabilmente. Però chissà. Sì, sarebbe stata più dura, si sarebbe trascinata forse, ma diciamo che sui tempi lunghi, ecco, non c'era nessuna. Avrebbe potuto accelerare, cioè rallentare la resistenza, che invece fu piuttosto rapida, e l'avanzata americana alleata fu piuttosto rapida, e direi però, insomma, le sorti della guerra erano segnate sostanzialmente, ormai i rapporti di forza erano tali che si trattava soltanto di trascinare ancora un po', e la guerra non finisce lì, certamente dura alcuni mesi ancora, però ormai i giochi sono fatti, insomma, si capisce che a quel punto, arrivati a Parigi, è solo una questione di mesi, l'agonia del Reich è ormai è in corso, diciamo. E ormai, appunto, a distanza di 70 anni abbiamo visto le imponenti, solenni rievocazioni che ci sono state in Normandia, ormai che sono passati così tanti anni e la polvere della storia si sta depositando. Appunto, che bilancio si può trarre di questa imponente, massiccia invasione? Quali furono le conseguenze dirette e indirette dello sbarco sugli esiti, appunto, della Seconda Guerra Mondiale? Appunto, come dicevo, in sostanza a questo punto la guerra in Occidente si capisce che è vinta, è solo una questione di tempi, di stabilire quanti mesi ancora. Gli americani cominciano a pensare alla guerra nel Pacifico, cominciano a preoccuparsi perché c'era stato, tra l'altro, sempre questo doppio partito all'interno del campo americano, soprattutto la Marina avrebbe voluto risolvere subito il problema con i giapponesi, e quindi diciamo che questa vittoria così schiacciante permette di cominciare a pianificare il futuro. E poi, ecco, pensare anche al dopo, insomma, gli americani stanno preparando l'atomica. E si comincia a pensare anche al dopoguerra, insomma, a quando l'alleanza che ha permesso la sconfitta del nazionalsocialismo verrà meno. Già a questo punto si comincia a vedere un po' il futuro, insomma. E certo, le celebrazioni di questi giorni fanno pensare che in realtà, ecco, a parte la retorica, a volte sembra che questi sacrifici siano stati un po'. Non diciamo inutile, ecco, Obama ha detto: quando avete un momento di debolezza pensate al sacrificio di questi giorni. Noi, ecco, diciamo, raccogliamo questo invito, certamente. è un invito, insomma, che merita certamente, merita rispetto alla memoria, al sacrificio di tutti questi uomini che sono battuti per la libertà. Sì, appunto, a proposito del sacrificio di questi giovani, ricordiamo che solo 2500 soldati, in gran parte americani, morirono a Omaha. E quindi, che poi ci è stato tramandato nell'immaginario collettivo attraverso il film di Spielberg, sì, Salvate il soldato Ryan, ma quelle sono scene terrificanti, cioè in realtà sono scene terrificanti, sono scene vere, questa è la vera, la guerra era così, insomma, che a volte noi il merito di quel film è veramente, ecco, quella prima parte in cui ricostruisce realisticamente quello che è un massacro. E quindi anche le previsioni, loro sapevano che sarebbe andata così, nelle prime ore sapevano che ci sarebbe stata questa resistenza immediata e avevano messo in conto anche la morte di migliaia di uomini. Questa è la cosa tragica, diciamo, certo, in qualche modo. Certo, migliaia di uomini che però hanno salvato il mondo e ci hanno restituito la libertà. Allora, grazie professor Conti e buona serata. Grazie, altrettanto buona serata.